1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari italiani, alle 7:17 minuti. Si è aperta ormai ufficialmente la 73esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché decisiva per l'abolizione delle province. Sarà quella decisiva? Chissà, abbiamo davanti 5 giorni, speriamo. Siete anche tra i fortunati possessori del biglietto che giovedì sera, qua alle 21, alla sede del Sole 24 Ore, assisterà live di Platone con me, con Leonardo Manera, soprattutto Mattatore, con Luca Clobas, Danilo Vizzini. Si ride, si ride, però sono tutti esauriti i biglietti, mi spiace, però faremo il live streaming su radio24.it. E se no, se avete il biglietto, tenetevelo stretto, giovedì alle 21 l'appuntamento qui a Milano alla sede del Sole 24 Ore per il live di Platone. Intanto noi parleremo oggi di vitalizi, torneremo, avremo il sottosegretario all'economia Zanetti, ve l'avevamo promesso, colui che ha fatto una proposta di legge costituzionale per ridurre i vitalizi, anche quelli in corso, toccare i diritti acquisiti, che chissà perché per alcuni sono acquisiti per sempre, per i cittadini comuni mortali no, ma il sottosegretario all'economia ha proposto una legge per toccarli. Parleremo di questo, di altro, di abusivismo edilizio in Italia e andiamo a leggere i giornali, dai. In questo lunedì 22 settembre cominciamo con i titoli. Il Sole 24 Ore oggi ha un titolo emblematico di prima pagina: Tasi, incognita da 100.000 aliquote. Lo vedremo tra poco. Mentre per il Corriere della Sera ancora le novità sulla riforma del lavoro senza l'articolo 18 che vuole Renzi. Chi licenzia perde gli incentivi. La Repubblica, PD sfida Renzi, intesa sul lavoro o referendum. Per la Stampa, lavoro, resa dei conti nel PD, la minoranza dice un referendum. Il Messaggero, statali, piano su scatti e carriere. Mentre il Giornale mette la storia di Riccardo Muti, il maestro che lascia l'Opera di Roma, anche questo è un articolo che vedremo tra poco, basta con l'Italia dei sindacati, il maestro Muti si autolicenzia. Il Fatto Quotidiano invece, l'edizione del lunedì, è dedicato a tutti coloro che da Torino a Napoli abbassano la saracinesca perché gli affari vanno male e chiudono. Chiudo bottega, questo è il titolo di prima pagina. Ma io voglio partire proprio dalla decisione di Riccardo Muti, il maestro che si dimette in polemica con gli orchestrali, ha mandato una lettera da Chicago a Roma a dire in pratica non dirigerò le nozze di Figaro e l'Aida. Sono i titoli più prestigiosi della prossima stagione. Non ci sono le condizioni per poter garantire quella serenità per me necessaria. Una decisione che arriva dopo lunghi e tormentati pensieri. E scrive il Messaggero, tra l'altro, in piena campagna abbonamenti, subito dopo un combattuto referendum tra i sindacati sul piano di risanamento, alla vigilia dell'inizio delle prove di Aida, previste per novembre. Tutto sotto contratto, costumi in prova, Riccardo Muti se ne va. E molti giornali mettono proprio, il Giornale, come detto, lo cita in prima pagina, l'ennesima storia di battaglia contro i sindacati. Basta con l'Italia dei sindacati, il maestro Muti si autolicenzia. Ma anche la Stampa mette a pagina 5 la storia di Riccardo Muti che lascia l'Opera e accusa i sindacati. Tra l'altro c'è un articolo di Alberto Mattioli proprio sulle difficoltà nel mondo dell'opera lirica quando si tratta di avere a che fare con i sindacati. Il titolo dell'articolo è emblematico: muovere la testa a ritmo va bene se c'è l'indennità. Scrive Alberto Mattioli sulla Stampa: Muti abbandona l'opera che affonda, magari servirà finalmente ad accendere i riflettori mediatici su quello che tutti sanno e nessuno ha il coraggio di dire. Con queste regole, con questi sindacati, i teatri lirici italiani sono ingestibili. Fellini, che conosceva i suoi polli, aveva già capito e raccontato tutto in prove d'orchestra. Ma come sempre in Italia la realtà supera la fantasia. Volete qualche esempio, cari ascoltatori? Alla Scala, ultima stagione, sono arrivate delle opere coprodotte con il Covent Garden di Londra, però a Milano c'era un intervallo in più perché qualche regola idiota impone che non si possano accorpare più atti se la loro durata eccede quanto stabilito dal contratto. Inutile le richieste dal podio dell'esterrefatto Sir Antonio Pappano. Risultato, l'opera, già lunga di suo, diventa interminabile. E poi c'è il problema del freddo. Si ricordano proteste e assemblee dal Carlo Felice di Genova al Massimo di Palermo perché in buca la temperatura era di qualche grado più bassa di quanto previsto. A Palermo i professori si presentarono polemicamente in cappotto. A Palermo, non a Stoccolma. Le indennità sono un capitolo a parte. C'è l'indennità lingua per i coristi perché disgraziatamente Wagner o Bizet hanno avuto la cattiva idea di non scrivere in italiano, indennità frac per i direttori d'orchestra, indennità umidità se lo spettacolo è all'aperto, indennità video se viene ripreso. All'arena c'è l'indennità arma, che è il compenso alla fatica di dover portare l'alabarda nel trovatore o lo scudo in Aida. Un'estate il regista di Nabucco, Dennis Creef, decise che ne aveva abbastanza, fece irrompere nel Tempio di Gerusalemme degli assiri perfettamente disarmati per non far pagare l'indennità arma. L'opera di Roma paga, cioè noi paghiamo, scrive ancora la stampa, un'indennità Caracalla anche agli impiegati che alle Terme di Caracalla, sede della stagione estiva, non ci mettono mai piede né mai ce l'hanno messo. E così via. Questo è il racconto della stampa delle indennità e, tra capricci e follie, l'impossibile gestione dei teatri lirici. Ora anche Muti sbatte la porta all'Italia. Il Messaggero dedica due pagine, 28 e 29, a questo amaro addio con la frase di Muti: qui è difficile lavorare. E il ministro della cultura Franceschini, pagina 28 del Messaggero, che dice: io lo capisco, basta resistenze corporative. Vabbè, come detto, parleremo invece e torneremo sulla questione dei vitalizi, perché avremo ospite quel sottosegretario Zanetti che era stato citato da noi venerdì e che ha fatto questa proposta di legge per attaccare i privilegi acquisiti, cioè coloro che hanno i vitalizi. Vedete che si può fare, si può se si vuole. E allora oggi Repubblica, tra l'altro, fa una pagina con Roberto Mania proprio dedicata a tutti i vitalizi d'oro, citando quella cifra che già Libero aveva messo nei giorni scorsi, 170 milioni di euro l'anno, questo è quello che pagano le regioni italiane per i vitalizi degli ex consiglieri, 170 milioni di euro l'anno. Ci sono alcune regioni nelle quali il costo dei vitalizi, quindi dei pensionati, dei consiglieri pensionati, è superiore al costo della gestione attiva della regione. Cioè si paga di più per quelli che non ci sono rispetto a quelli che sono in questo momento consiglieri. E si cita proprio la proposta di Enrico Zanetti, che prima di entrare al governo aveva presentato questa legge costituzionale, scrive Repubblica, per tagliare i vitalizi, ma non solo quelli futuri, anche quelli passati, di consiglieri regionali e parlamentari, mettendo un tetto ai loro emolumenti. Per esempio, prima regola, si dà il vitalizio solo chi ha fatto 10 anni consecutivi, oppure 15 non consecutivi, sia in regione sia in Parlamento. Basta quelli che, e questo anche per il passato, se passasse questa legge, basta quelli che per 2 giorni in Parlamento si beccano il vitalizio per sempre. Chissà se passerà questa proposta di legge costituzionale. Io ho un piccolo sospetto, secondo voi la faranno passare? Ma speriamo, non bisogna essere ottimisti. Certo, l'ottimismo non ce l'ha più il sindaco di Elmas, in provincia di Cagliari, Walter Picedda, che, racconta la stampa, ha preso una decisione anche un po' drastica e, se volete, emblematica. Lo racconta Nicola Pinna sulla stampa, il titolo è questo: troppi disoccupati, e allora il comune paga chi emigra all'estero. E la decisione del sindaco, che dice: continuano ad entrare nel mio ufficio a dire voglio andare via, voglio emigrare, qui i nostri ragazzi non hanno più possibilità, allora perché non aiutarli a trovare un'alternativa altrove? Non è una vergogna cercare un lavoro fuori dalla Sardegna o fuori dall'Italia? E così il sindaco ha deciso che a chiunque, su fino ai 50 anni, gli chiede di andare in qualche capitale europea, a patto di vivere a Elmas da almeno 3 anni e essere residente, pagherà il viaggio e le prime spese di soggiorno e anche un corso di inglese. Questo è il messaggio del sindaco di Elmas ai giovani del paese, nella propria città: ragazzi, non c'è lavoro, vi pago le spese, emigrate. Questo lo racconta La Stampa, mentre vince il premio Mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare della giornata. Proprio all'apertura del Sole 24 Ore, Gianni Trovati racconta che sulle variabili della TASI sono stati fatti i calcoli. Eccolo qui. Sapete quante sono le variabili per calcolare la TASI al netto della semplificazione fiscale in Italia? 100.000! Sono scaduti i termini per la pubblicazione delle delibere locali sul sito delle finanze in 5.227 città. Si pagherà l'acconto entro il prossimo 16 ottobre, passando in rassegna le decisioni dei sindaci. Le complicazioni non mancano. Sono, per la verità, 98.155 le aliquote approvate dai comuni per definire il tributo locale. 98.155. Che dite? C'è da tenere le mani ben strette sul volante, dalla rabbia a leggere quello che può succedere. 100.000 variabili per calcolare la TASI. Vado subito a chiamare e a ordinare un bel TSO per i commercialisti italiani, a cui va la nostra solidarietà. Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente. Sono Riccardo Magri, amministratore delegato di Yokohama Italia. Alla Yokohama vantiamo una lunga tradizione nel campo del motorsport, con l'obiettivo di migliorare le performance dei piloti e il livello tecnologico dei nostri pneumatici. Per la sicurezza attiva della vostra auto, affidatevi alla nostra rete di consulenti di guida. Ma per le telecomunicazioni della vostra impresa, vi consigliamo Welcome Italia. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in 3 squilli. Buongiorno signora, le ho portato il suo letto Flu. Complimenti, è bellissimo. Lo so, grazie. Allora, il letto, il materasso, i guanciali, il copripiumino e lo splendido piumino 4 stagioni. Ma io non ho ordinato il piumino. Oggi, se acquisti un letto Flu completo di materasso, guanciali e copripiumino, hai uno splendido piumino 4 stagioni compreso nel prezzo. Allora, lo porto via? Scherza, il mio nuovo piumino. Ciao, siamo sempre noi. Guarda che gli altri, crisi o non crisi, si danno da fare. Vedessi come corrono. Noi invece, qui, a far nulla. Insomma, vedi un po' tu. Sono i tuoi soldi a chiedertelo. Prova moneyfarm.com. Vai sul sito, indichi l'importo, la durata e gli obiettivi del tuo investimento e ricevi subito il tuo piano finanziario personalizzato. Money Farm ti propone solo prodotti a basso costo di gestione per guadagnare anche risparmiando. Money Farm, veramente utile. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Milano, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it, prenota il tuo stand a Forum Agenti Milano. Incontrerai più di 7.000 agenti di commercio. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 28 e 29 novembre, Fiera Milano City. Ti piace? Ancora un po'. Allora, ti piace? Dai, ancora un po'. Ti piace o no? Buonissima. Peccato che sia finita. Non è che ne hai un'altra di Fiesta? Solo Fiesta ha dentro il ritmo dei Planet Funk. Per festeggiare i suoi 50 anni, Fiesta ti regala 10 tra le più belle canzoni italiane. 5 remixate solo per te dai Planet Funk. Info su fiestaferrero.it. Fiesta, il gusto che riaccende il ritmo. E tu, Luca, vuoi prendere la qui presente assicurazione online come tua compagnia, pensando solo al prezzo e non alla qualità del servizio e magari rinunciando alla libertà di far guidare chi vuoi? Beh, no. Bravo, figliuolo, ti presento io quella giusta. È Linear, l'assicurazione che può farti risparmiare sull'RC auto e ti offre la guida libera. Fai un preventivo su linear.it. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su linear.it. Prossime fermate, ambiente, legalità, sviluppo. Sali sulla nuova linea del cambiamento con il Sud Sostenibile. Milano, 26-27 settembre, Castello Sforzesco, www.conilsud.it. vogliamo raccontarvi una bella storia. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso c'è. È la nuova Volkswagen Golf TGI Blue Motion. Oltre 1370 km di autonomia complessiva e soli 3,50 € per fare più di 100 km. Nuova Volkswagen Golf TGI Blue Motion. La prima auto a metano che è anche una Golf. A partire da 18.900 euro. Piaciuta la storia? Scoprila nelle concessionarie Volkswagen. Info su Volkswagen.it. Ciao Marco, quanto tempo! Non farti mai sentire, eh? Ah, Paolo! Lo so, è che al lavoro stanno ristrutturando e sono preoccupato. Tu invece? L'anno scorso ho seguito il Master Cineas in Risk Engineering e ora la gestione del rischio è il mio lavoro. Prevenzione, controllo... Ah, spiegami meglio. Combatti la crisi. In 16 anni Cineas ha formato oltre 500 professionisti nella gestione del rischio industriale. Master in Risk Engineering e Risk Management nelle imprese, dal 21 novembre 2014. Info su cineas.it. Sei artigiano, commerciante o professionista? Finalmente i tuoi clienti ti possono pagare ovunque ti trovi con UPOS Mobile, il sistema di incasso in mobilità del Banco Popolare. UPOS Mobile, farsi pagare non è mai stato così semplice e mobile. Scopri come avere il tuo POS sempre con te su uposmobile.it e nelle filiali Banco Popolare. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Fogli informativi nelle filiali e sul sito uposmobile.it. Alessandro Mina, il cavaliere Jedi dell'informazione. Per essere proprio pacati, il cavaliere Jedi. Allora, i giornali oggi sono pieni, come sono da tre giorni, del dibattito o la rissa verbale vera e propria all'interno del Partito Democratico sulla riforma del lavoro. Ieri Renzi, prima di partire per gli Stati Uniti, dove è arrivato ieri a San Francisco per un tour anche nella Silicon Valley, scoprire anche i nuovi talenti e come si muove la nuova tecnologia nel mondo, prima di partire appunto per gli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione, un'intervista al TG2 nella quale ha detto: nel mio partito c'è chi ritiene si possa proseguire con una sorta di facite a muina, per cui anche dopo la vittoria alle europee non cambia niente, Renzi fa la foglia di fico, sono cascati male. Ecco, questa frase, sono cascati male, all'interno, rivolta ai colleghi del proprio partito, chiaramente fa molto dibattere. Renzi chiude la porta agli oppositori nel PD, così titola pagina 5. La linea, anche secondo il retroscena consueto e quotidiano di Maria Teresa Meli, è questa: non temo i giapponesi. Libertà di coscienza non può valere su tutto. La linea è questa, ci sarà un voto in una riunione di direzione, poi un voto nei gruppi parlamentari, dopodiché la democrazia interna di un partito ha delle regole, non può esistere la libertà di coscienza su tutto. Come dire, si voterà in direzione e poi tutti si adeguino. Dall'altra parte invece Bersani risponde al premier: sono vecchio? Sarò vecchio, ma anche Berlusconi è vecchio, eppure viene trattato da Renzi meglio di me. Vedete qual è il clima all'interno del Partito Democratico? Scrive Repubblica, a pagina 4, Bersani star tra i militanti, è vecchio pure Silvio, ma Matteo lo rispetta. Chi è più vecchia guardia di Berlusconi e Verdini? Eppure loro sono trattati da Renzi con educazione e rispetto. Spero che un giorno questo capiti anche a me. Così Bersani. Mi offendo se mi chiamano conservatore. Ma certo il dibattito è partito, addirittura la minoranza del PD sarebbe pronta, sempre con Bersani, a lanciare l'idea di un referendum all'interno degli iscritti del Partito Democratico per dire che ne pensate della la riforma del lavoro, soprattutto l'eliminazione della reintegra in caso delle nuove assunzioni. I vice segretari del Partito Democratico in questo caso cosa fanno? Sempre un'intervista a testa, Deborah Serracchiani su Repubblica, intervistata da Giovanna Casadio, a pagina 13: non siamo una ditta né una bocciofila, qui le decisioni si devono rispettare. Mentre Lorenzo Guerini, intervistato dalla Stampa, intervistato da Carlo Bertini, a pagina 3 dice: non si usi il lavoro per cambiare i rapporti all'interno del partito. Dice Guerini, c'è stata un'escalation di toni, ma di fronte a chi dice di voler votare contro, a prescindere da ciò che dice, deciderà la direzione, non bisogna stupirsi che sia cresciuta la vis polemica di chi gli ha risposto. Insomma, per tradurla, volano stracci. C'è anche Stefano Fassina, che da qualche giorno è redivivo, è tornato a combattere, soprattutto contro Renzi, a dire... Renzi così ci manda dritti dritti al voto in primavera. Questa è l'analisi di Stefano Fassina, intervistato dal Fatto Quotidiano a pagina 2. Viene intervistato, per la verità, anche dal Secolo XIX. Stefano Fassina dice: Matteo Renzi è in difficoltà e dice cascate male a quelli del PD perché cerca lo scontro, visto che non riesce a mantenere le promesse. Ma se si fa un confronto sul merito, una soluzione è possibile. Insomma, è un paese strano, quello in cui Silvio Berlusconi dice in questo momento in Italia c'è una bandiera che sventola nel cielo, bisogna riconoscerlo, è Matteo Renzi. È solo che Silvio Berlusconi è di Forza Italia. E invece all'interno del partito Matteo Renzi raccoglie soprattutto critiche, almeno da parte di alcuni esponenti influenti del Partito Democratico, ma è un po' la storia politica dell'Italia negli ultimi 20 anni. Non è certo il primo leader di sinistra che è attaccato all'interno del suo stesso partito. L'invito all'unità è di Guglielmo Epifani, ex leader della CGIL, che intervistato dal Corriere della Sera dice: dividersi ora è una sciocchezza, ma il reintegro deve restare. Ecco, a proposito di questo, le novità. La novità più importante la racconta il Corriere della Sera, pagina 2, sulla riforma del mercato del lavoro. Lo fa Enrico Marro, il titolo è questo: tutele crescenti, incentivi, sussidi e indennizzi legati agli anni di lavoro. In attesa di capire se Renzi sceglierà tra il decreto legge oppure un iter parlamentare più lungo, nel nuovo mondo del lavoro che ha in mente Renzi, scrive il Corriere, ci sono solo due forme di lavoro, autonomo e dipendente. Quella dipendente a sua volta si suddivide in tempo determinato e tempo indeterminato a tutele crescenti. Quest'ultima dovrebbe essere la forma più diffusa, perché l'azienda sarebbe incentivata a ricorrervi. Come? Con uno sconto sul costo del lavoro rispetto a un contratto a termine. Ma qui c'è una novità importante. Se nella prima fase del contratto a tutele crescenti, poniamo 3 anni, l'azienda risolvesse il rapporto di lavoro, dovrebbe restituire allo Stato lo sconto di cui ha beneficiato, perché essendo stato il contratto alla prova dei fatti a termine, esso appunto dovrebbe costare di più. Verrebbero così scoraggiati gli imprenditori che volessero fare i furbi, mentre i contratti temporanei dovrebbero limitarsi ai soli casi nei quali effettivamente il lavoro si suppone a tempo determinato, per esempio le attività stagionali. Questa è la novità, scrive il Corriere della Sera con Enrico Marro, allo studio nella riforma del lavoro. Mentre invece c'è l'altro giallo. Il giallo è quello dei debiti alla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Ricordate, l'abbiamo fatto sentire Matteo Renzi, che disse da Vespa: se entro il 21 settembre, San Matteo, fine dell'estate, non si pagano o sbloccano, questa è la frase che ha detto, non si pagano o sbloccano i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, vado a fare un pellegrinaggio. Ora ovviamente succede come succede tutte le volte in Italia. Chi ha vinto? Non si sa. Il governo dice che i soldi ci sono. Bisogna da parte delle imprese iscriversi nel registro, fare tutta una procedura. Le imprese dicono non è vero. La CGA di Mestre dice, per esempio, ballano 20 miliardi. Scontro sui debiti della pubblica amministrazione. Mancano 20 miliardi. Questo è il titolo del Messaggero a pagina 2. Ma Palazzo Chigi ribatte: i soldi ci sono tutti. Ecco, è un paese in cui non si riesce neanche a capire se 1 più 1 fa 2. Forse sti soldi se li è ciucciati tutti Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Te li sei imboscati tu? Evidentemente no, Alessandro, perché se fosse, fortunatamente, forse non risponderei al telefono a te a quest'ora del mattino, scusami. Però sento infatti che sei un po' lontano, magari alle Seychelles, magari. No, guarda, state sereni, non è così. State sereni. Intercontinentale la chiamata. No, non saprei, saranno finiti in fuorigioco, perché sul fuorigioco faccio una battuta da interista. Ma cosa vuoi? Perché vorresti dire che il gol annullato alla fine del primo tempo non era fuori gioco? No, ho fatto una battuta sul fuorigioco, non farmi dire fuorigioco, punto. Pensavi che il campionato fosse sospeso, immagino, perché eri già preparato a questa eventualità. Sì, ci sono state le prime due partite, si riparte martedì. Esatto, non si è giocato per niente. Per niente questo weekend, no. Senti, io lo so che ci sono ben altre questioni, però ti vorrei dire... tu abiti a Milano, sì. Perché Milano è uno dei 5.000 spicci comuni, mica tanto spicci, sono un po' di più, dove si pagherà la TASI entro il 16 ottobre. Abbiamo fatto vincere il premio Mani sul volante oggi, al Sole 24 ore. Ecco, scommettiamo, io non vorrei scommettere niente, però ci sono 5.000 spicci comuni dove si pagherà la TASI. Quali sono? Li mettiamo tutti, mettiamo l'elenco oggi sul Sole 24 ore, tutti i comuni dove si deve pagare la TASI al 16 ottobre, quindi ci sono queste due settimane e poco decisive, queste sì, per prepararsi a capire il rebus, perché come avrei visto oggi sul nostro giornale abbiamo fatto il conto che ci sono circa 100.000 ipotesi diverse, non è un numero tirato a caso, sono proprio 99.000 e qualcosa, ecco. Quindi insomma, buon lavoro a tutti noi, armiamoci di calcolatrice e soprattutto di santa pazienza. Ti voglio dire però che si parla anche di F24 online, so che è un argomento che ti aveva già turbato nella settimana scorsa. Vuoi riturbarmi? Ecco, no, ti voglio turbare dicendoti che sull'F24 che passa online sopra i 1.000 euro, allora abbiamo dedicato l'esperto risponde, il nostro inserto di risposte ai lettori, l'esperto risponde di oggi. Vuoi comprare un'auto usata? Non da me, sai come diceva quel tale, certo. Comprereste un'auto usata da Mauro quest'uomo. Meazza un'auto usata, è chiaro. Io so che tu non compreresti mai un'auto usata da me e la cosa è reciproca, però ti voglio dire che se ti interessasse prima magari leggi Risparmio e Famiglia oggi sul Sole 24 Ore, dove ti diciamo appunto che cosa, quali sono le avvertenze insomma per comprare, per trovare le migliori occasioni anche sfruttando internet. Ottimo. E una cosa, io non so adesso sti 20 miliardi di cui parlavamo all'inizio, posto che io non ho visto un centesimo e non li aspettavo nemmeno, io non sono un'impresa, però se ne cadesse qualcuno prendo volentieri. Ti voglio dire che comunque i rimborsi dell'IVA da noi vanno sempre, non dico a passo di lumaca, ma pure di più. C'è un lavoretto di Chiara Bussi oggi, un lavoro di Chiara Bussi che fa un confronto europeo e purtroppo noi abbiamo dei tempi d'attesa di 2 anni e mezzo. Non te lo voglio dire, ma in Germania e nel Regno ancora unito sono 10 giorni di tempo di attesa, quindi da 2 anni e mezzo a 10 giorni abbiamo, come si dice in questi casi, ampi margini di miglioramento. Abbastanza. Tutto ciò premesso? Andiamo. Traffico. Alessandro Milan, il sartiapone dell'informazione. Allora, c'è da dire che invece ieri Silvio Berlusconi ha parlato a Sirmione, alla scuola di formazione politica di Forza Italia, e ha detto questa frase: in questo momento c'è una bandiera che sventola ed è quella di Matteo Renzi, mentre c'è una bandiera a mezz'asta che è quella di Silvio Berlusconi. Un Berlusconi dunque in questa frase un pochino dimesso, anche se racconta Rodolfo Sala su Repubblica a pagina 6, è un Berlusconi che in realtà aspetta proprio le difficoltà all'interno del PD, tanto che il titolo è questo: sul lavoro il PD imploderà. Ora Forza Italia può diventare decisiva, perché fa sapere Silvio Berlusconi: guardate cosa succede con l'articolo 18, nel PD si comincia a ballare, a un certo punto la minoranza interna lo farà collassare. Teniamoci pronti, cominciamo col sostenere il Jobs Act, poi vedrete che anche sull'Italicum il solco tra Renzi e i suoi oppositori si allargherà, a quel punto noi saremo davvero determinanti. Questa è la linea, come dire, di attesa di Silvio Berlusconi. Voglio andare però velocemente alle notizie di cronaca con l'intervista che Luigi Bisignani fa oggi al Fatto Quotidiano. Intervistato da Marco Lillo, Luigi Bisignani risponde all'amministratore delegato dell'ENI Descalzi, che ieri ha rilasciato un'intervista a Gad Lerner su Repubblica, nella quale tra l'altro ha detto «Ho pianto per Bisignani, mi ha fatto piangere per l'indagine sulla corruzione in Nigeria». Beh, è un Bisignani che oggi risponde al Fatto Quotidiano e dà dell'ingrato a Descalzi. Sulla Nigeria le lacrime che Descalzi versa con Gad Lerner sono lacrime di coccodrillo, dice Bisignani. È un uomo probabilmente sull'orlo di una crisi di nervi, incapace di rivendicare quello che è stato un grande affare per l'ENI e nel quale io non ho compiuto nulla di non lecito. È un bel voltafaccia il suo. Umanamente mi dispiace molto per il rapporto che ho avuto con lui, ma il coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare, come diceva Manzoni. E soprattutto è Scaroni, a cui deve tutta la carriera. In quel periodo ho ricevuto qualche sua telefonata per informarmi, ma più probabilmente Descalzi mi chiamava per blandirmi, perché teneva molto a instaurare un rapporto con me. Insomma, un Bisignani che dice: altro che Descalzi, l'ho fatto piangere, mi cercava, mi blandiva, e poi lui deve tutto a Scaroni. Insomma, definisce ingrato questa vicenda. Certamente non finirà così. La cronaca oggi fa registrare anche la pubblicazione su Repubblica, a cura di Paolo Berizzi e Piero Colaprico, di un verbale. È il verbale dell'interrogatorio a Giuseppe Bossetti, in carcere da 3 mesi perché è ritenuto l'assassino di Yara Gambirasio. Ora, io ho letto con molta attenzione questo verbale e c'è da dire che, vabbè, è un verbale di interrogatorio, quindi ci sono aspetti molto interessanti per l'indagine. È la versione di Bossetti sul dov'era quel giorno, sul DNA, perché il suo DNA è sugli slip di Yara. Lui spiega: non riesco a capire come possa essere finito su quel corpo, dico la verità, non ho mai fatto male a nessuno. E poi ci sono degli aspetti che francamente dovrebbero far riflettere tutti anche sul ruolo dell'informazione, e sono questi. Già dal titolo: guardavo siti porno con mia moglie, ma non ho mai cercato video con minorenni. Eccola qui la domanda chiave: lei ha cercato video con minorenni? No, avrò visto qualche sito porno con mia moglie, ma non ho mai cercato video di minorenni. E poi non è finita, ma guardate questa parte pubblicata su Repubblica. Avete mai avuto crisi di coppia con la moglie? Mai. Il sesso tra voi funzionava? Sì, facevamo l'amore 2-3 volte a settimana. Lei sa che sua moglie aveva degli amanti? È impossibile. È il PM. E lei? A noi risulta qualche scappatella con la signora, ovviamente non scritta, del ristorante. Evitano il comune. E poi abbiamo sul suo telefonino un elenco di nomi di donne. Beh, certo, perché questo è una grave accusa, avere un elenco di nomi di donne sul telefonino. E lui che dice: guardate che le nomi di donne sono fasulli, erano solo un modo per ricontarmi il codice del bancomat. Cioè, pubblicato questo, facevamo sesso 2-3 volte a settimana con mia moglie, le scappatelle, gli amanti, così. Adesso tutta Italia non sa se è l'assassino di Yara Gambirasio, ma sa queste belle cose. Va bene, e poi sempre per quel che riguarda la cronaca, registro che cosa? Quello che racconta un'autista donna, Elisa De Bianchi, dell'ATAC di Roma, con l'aggressione che gli hanno fatto 30 persone, apri o ti ammazziamo, aggredita sul suo autobus, racconta il Corriere della Sera con Rinaldo Frignani tutte le vicissitudini. Questi pazzi mi gridavano: apri o t'ammazziamo. Erano sulla linea 42, non so perché erano arrabbiati. Alcuni hanno lanciato bottiglie di birra, hanno fatto implodere un finestrino. Erano persone, tutti immigrati, fa sapere, probabilmente di un centro di accoglienza lì vicino. Volevano ammazzarmi, probabilmente, se fossero riusciti a salire sull'autobus. Rischiavano, se salivano, anche di violentarmi. E questo è il racconto di questa donna che dice: tutti tutti ci fotografano quando, quando usiamo il telefonino alla guida, però mentre mi aggredivano in 40 la gente si fermava in macchina e poi tirava dritto e nessuno che mi ha aiutata. Va bene, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina del Corriere della Sera con Elena Tebano con questa domanda. Dibattitone, è giusto mettere in rete le foto dei figli? Una pagina sul Corriere della Sera. Segue dibattito. Basta tasse, basta tasse, basta tasse.